nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornate, bentornati fedeli di Nessuno è Perfetto, il programma di Radio 24 che, oltre a ricordare ogni domenica abbasso il multitasking, fa male al cervello, si occupa un po' di tutto quello che riguarda l'universo femminile, a cominciare dal lavoro, ma non solo. 800 28 12 12 è il numero al quale lasciare i vostri messaggi, una casella vocale, ma anche i vostri SMS. Ci interessa moltissimo il vostro punto di vista, e il vostro punto di vista è arrivato con grande intensità nella puntata che abbiamo dedicato la settimana scorsa, soprattutto a questa visione, a mio modesto parere, arcaica, vecchia, della donna, che è stata offerta da una conferenza stampa sul Festival di Sanremo. Ricorderete, il conduttore del Festival, Amadeus, ha fatto ricorso a espressioni come una donna che ho scelto perché è capace di stare un passo indietro rispetto al suo uomo, oppure il riferimento alla bellezza delle 10 donne che saranno sul palco di Sanremo. Una scelta rispetto alla quale io non mi trovo d'accordo. L'ho detto forse anche con un surplus di passione, ma quando ci vuole, ci vuole. E comunque è un tema che ha coinvolto moltissimi tra voi, ci avete lasciato molti commenti anche sulle nostre pagine Facebook e su Twitter, che vi ricordo ha come account Nessuna è Perfetta senza accento, e poi tanti messaggi anche sulla nostra casella vocale 800 28 12 12. Ecco alcuni dei vostri SMS. Sì, pronto. Riguardo a questa polemica su Amadeus, la trovo veramente sterile e inutile. Io parlo da vecchia femminista, veramente credo che stia diventando un tabù parlare della bellezza, e non credo che Amadeus, bravo presentatore qual è, un bravissimo personaggio che sa fare il suo lavoro, intendesse portare le donne soltanto per la loro bellezza. No, non credo assolutamente questo. Ecco, riguardo al passo indietro della moglie di Valentino Rossi, credo che qui si tratti anche di intelligenza, non soltanto di un fatto di complesso di inferiorità o di voler far sentire che la donna sia inferiore all'uomo. Non si tratta di questo. Credo che una donna che sa stare un passo indietro non voglia essere competitiva col marito. Allora, due cose distinte, cara ascoltatrice. Certo, anch'io penso che nel 2020 Amadeus non volesse restringere solo alla bellezza, la motivazione per cui quelle 10 signore saranno sul palco con lui. E però a quello ha fatto riferimento, tutte molto belle, ovviamente belle. Io penso semplicemente a quelle ragazzine di 11 anni, di 12 anni, di 13 anni che magari vivono in piccoli paesi di provincia, come vivevo io in un piccolo paese di provincia alla loro età, vivevo a Sabaudia. Il Festival di Sanremo arriva nella casa, nelle case di tanti, tanti italiani, e il messaggio che arriva, spero non durante il Festival di Sanremo, ma che comunque però sembrava dovesse arrivare almeno dalle parole pronunciate in conferenza stampa, è: cara bambina, fai di tutto per essere bella, perché è quello che ci si aspetta da te, che tu sia bella. Messaggio che fa molto male alle ragazzine, perché le fa sentire anche in generale magari inadeguate. E comunque non fa bene a tante donne che, belle o non belle, vorrebbero puntare sulla fatica di studiare, di lavorare, di essere apprezzate per quello che fanno. Quanto al passo indietro, cara ascoltatrice, nessuna più di me detesta le sgomitatrici, le arrampicatrici sociali, quelle che fanno di tutto per essere sempre viste, perché insomma è un tema di narcisismo, lo sappiamo, viviamo nell'era del narcisismo esasperato. Quindi, per carità, a me piacciono molto le persone che sanno stare anche un passo indietro se serve, magari sono molto più autorevoli proprio per questo. Però dire che una donna va apprezzata perché sa stare un passo indietro, quando sono secoli, millenni che ci tengono un passo indietro, beh, proprio non era proprio necessario, come dire, citarlo. Non sono d'accordo sul portare 10 donne a Sanremo in questo modo, soprattutto perché si parla di donne solamente in termini di avvenenza. E ce ne sono altri, molti altri, ma li sentiamo dopo. Adesso andiamo a scoprire di che cosa parliamo questa domenica. E di che cosa parliamo? Parliamo di figli. Perché? Perché i figli sono comunque un elemento che accompagna la vita di noi donne e uomini, sia che si sia genitori, sia che si rimanga figli tutta la vita, sia che non avendo figli magari per scelta ci si sia interrogati sull'opportunità di averli, oppure si abbia questo rimpianto di non averli potuti avere. Comunque i figli non sono solo piezze e core, come diceva la nota commedia di Edoardo De Filippo, ma sono la cosa che accompagna tutta la vita nel momento in cui si decide di averne uno. E di figli parliamo proprio oggi. Perché? Perché tra l'altro, almeno per molte donne oggi, è complicato voler avere una famiglia e il lavoro. Lo sapete, tante donne sono costrette a porsi questa domanda e a scegliere, e in Italia un genitore su tre, ben il 36%, lo sapete, l'analisi dell'Unione Europea delle cooperative l'abbiamo citata molte volte qui a Nessuna Perfetta, ebbene, un genitore su tre si licenzia in Italia quando arriva il secondo figlio, il terzo figlio, perché non ce la fa a tenere insieme tutto, lavoro, famiglia, e spesso, quasi sempre, a licenziarsi sono le donne. E dunque 828 12 12 per i vostri messaggi vocali, che, come dire, arrivano sempre più numerosi domenica dopo domenica. Ne ascolteremo anche altri tra poco, ma ora è il momento di ascoltare un papà speciale, Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, che al tema genitori e figli ha dedicato il suo Riprendiamoci i nostri figli, la solitudine dei padri e la generazione senza eredità, pubblicato da Marsilio. Buona domenica, Antonio Polito. Salve, salve a voi e ai vostri ascoltatori. Dal mestiere di genitori non ci si può licenziare, questa è proprio una grande verità che tu evidenzi in apertura del tuo libro. Non ci si può licenziare, ma ci si sente molto soli. Un tempo, quando c'erano le famiglie allargate, c'era sempre una zia, uno zio, un nonno. Adesso spesso i nonni si fanno carico, per carità, di tanti necessità dei figli e dei nipoti, ma non sempre ci sono, per scelta o perché appunto non possono. Dunque, la solitudine del genitore, in che senso e come porre rimedio? Ma insomma, non ci si può licenziare, sì, è vero, è perfettamente così. Il fatto che poi l'esperienza di tutti noi genitori ci ha rivelato che non ci si può licenziare neanche quando uno pensa che ormai le preoccupazioni sono finite, non ti devi più occupare tanto, un figlio di 24 anni, 25, ormai nella condizione nostra attuale spesso sono invece ancora a casa, quindi veramente non ci si può licenziare mai. Ma la solitudine secondo me deriva dal fatto che intorno alla famiglia non ci sono più attive e concordi con la famiglia tutte quelle agenzie educative che un tempo funzionavano, ma dico dalla parrocchia alla squadra di calcio, alla sezione di partito, alla scuola che funzionava, certo, ai media anche la televisione in qualche modo, davano tutti un po' lo stesso messaggio. Oggi invece la famiglia da questo punto di vista è molto sola. E certo. Pazienza ad Antonio Polito e poi torniamo subito da lui. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melg le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile, in occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza sull'Autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. Nessuna è perfetta. Eccoci di nuovo con Antonio Polito. Quali sono i vari nemici della famiglia e del ruolo dei genitori in ordine decrescente o crescente di importanza, quelli che tu individui come i nemici o i falsi alleati più insidiosi? Ma un pericolo serio secondo me sono le altre famiglie. Questa è una cosa che se ne parla poco, ma poi nell'esperienza concreta lo si vede molto. Cioè tutte le regole, i principi morali, educativi che si tenta di affermare in casa, anche nelle famiglie più attente a questo tema, spesso sono contraddette dall'esperienza dei compagni di scuola o di giochi dei nostri figli o di università dei nostri figli. Dice, ma quelli poi invece fanno così a casa loro, vanno a cena da un'altra parte e tornano dicendo ma lì si può tenere il telefonino a tavola, oppure il mio amico gioca alla PlayStation tutto il tempo che vuole. Crescono, mi ricordo le battaglie gigantesche che facevo con la mia figlia adolescente, la mia amica può stare fuori fino alle 3 del mattino, perché io no, appunto, e c'ho 16 anni. E si combatte a mani nude, perché gli avversari sono gli altri genitori, purtroppo. Sì, spesso. Sì. Infatti io poi alla fine nel mio libro tento anche di un po' di suggerire un sistema di solidarietà intergenitoriale, nel senso che le famiglie, almeno per esempio finché i ragazzi vanno a scuola e quindi ci si conosce un po', bisognerebbe che si frequentassero, che stabilissero un po' anche dei metodi comuni, no? delle regole un po' più diffuse, perché sennò è difficile poi a casa, è difficile fare il socialismo in un paese solo, no? Quindi questo è il primo. Secondo me molto, molto pesante, un nemico molto importante è è una certa presentazione mediatica dei comportamenti giovanili. Adesso non so, andrà a Sanremo un rapper che ha scritto canzoni, che nessuno di noi, se se ne accorgesse, farebbe ascoltare I propri figli, magari. Ma il fatto è che i genitori non li ascoltano le canzoni dei rapper, appunto, che i figli sentono. Esatto, io sono il primo a dirlo. Io per fortuna la mattina in macchina qualche volta si sentono queste cose, resto abbastanza colpito, perché non è solo uno, è proprio tutta una musica che ha questo modo di parlare, per esempio della donna, no? del rapporto uomo-donna, abbastanza inquietante, o anche delle sostanze, della droga, eccetera. Quindi questa cosa qui. E poi l'affermarsi ormai come una cosa quasi che bisogna accettare, che non, contro la quale non si può neanche polemizzare, della cosiddetta cultura dello sballo, cioè l'idea che il divertimento sano, giusto, normale, quello che tutti i ragazzi hanno più bisogno, debba per forza corrispondere con la perdita della coscienza. Cioè lo sballo è farsi due sciottini, diventare un po' ubriachi o molto ubriachi, oppure farsi uno spinello e così via. Ora, questi problemi, queste sostanze sono sempre esistite, ma mai e così in profondità in settori così giovani della popolazione, e soprattutto mai con tanta tolleranza pubblica, cioè come se fossero una forma di divertimento normale. E questo nel tuo libro suggerisci dovrebbe diventare un cemento comune tra tutti i genitori che si conoscono, che si parlano, perché i figli magari fanno la terza media e già in terza media comincia l'uso di sostanze e anche l'uso e l'abuso di alcol. Io penso che bisognerebbe riprendere un discorso sull'educazione, un discorso pubblico. Non è che se ne parli molto nel nostro paese, no? Quando succede una tragedia, non so, un, un ragazzo che uccide i genitori, oppure oppure che muore per un'overdose, allora si apre una discussione che in genere riguarda gli aspetti sanitari, repressivi o psicologici del problema. Ma l'aspetto educativo di questi problemi non viene mai considerato. Anche, non so, in televisione, perfino in radio, lo dico anche a te, quando si parla del disagio giovanile si sente uno psicologo, uno psichiatra, un giornalista come nel mio caso, ma io sono anche genitore, ma per esempio mai un educatore, mai un insegnante. Gli insegnanti hanno perso anche una... ruolo sociale. Ma sai che spesso in radio io affronto questi temi anche nell'attualità del programma 24 Mattino insieme a Simone Spezia. Ebbene, spesso capita che gli ascoltatori ti scrivano per dire la Tella, la solita bigotta. Ma il problema non è di bigottismo, il problema è di salvare le vite, perché noi non ce ne accorgiamo, ma mettiamo in gioco la salute e purtroppo spesso con gli incidenti in autostrada e con le cose che citavi te, anche la vita dei nostri ragazzi. Ma, come dicevi tu, sembra quasi di voler introdurre una visione, appunto, bacchettona, che non è un nonsense, non è una visione bacchettona, sarebbe buonsenso. Ma sai, io penso questo, io penso che, come posso dire... Perdere l'autocontrollo è una forma di riduzione della libertà, quindi è il contrario, cioè una posizione non moralista, una posizione che mette al centro la libertà delle persone, dei nostri figli, dei giovani, dovrebbe secondo me battersi perché i ragazzi non caschino in questa attrazione appunto della perdita della coscienza, seppure temporanea, dello stato in cui non sono pienamente in controllo di se stessi, perché questa è una riduzione, una perdita di libertà. E poi appunto in quei momenti può succedere di tutto. Quindi secondo me è una battaglia di libertà, non è una battaglia moralistica, nel senso che io non ho non ho niente contro la sostanza in sé, so anche che appunto nella storia dell'umanità sostanze più o meno stupefacenti hanno sempre accompagnato la vita degli uomini. Io però ce l'ho con una cultura che dice è normale, va bene, si può fare, non è così grave, questo sì. Ecco, volevo chiederti un'ultima cosa, ma i minuti scappano e quindi ti chiedo di essere purtroppo sintetico. Volevo citare un articolo che tu hai scritto sul Corriere della Sera, la trappola dei lavori che rubano il tempo, promettono libertà, ma purtroppo poi disancorano le famiglie, ed è il tema di un bellissimo film del regista britannico Ken Loach, Sorry We Missed You. Perché questi lavori che sembrano dare libertà a chi li fa, no? Fai l'autista di Uber, c'hai il tempo che vuoi per gestirtelo, oppure come nel film lavori per una grande multinazionale della consegna dei pacchi, pensi di essere libero, in realtà poi perché hanno queste, incidono così tanto sulle famiglie? Perché diciamo l'inganno della libertà sta nel fatto che non sei un lavoratore dipendente ma sei un lavoratore autonomo, no? Però il sistema per guadagnare, per non prendere penali, per poterti ripagare il mezzo che deve essere tuo, sei costretto a lavori pazzeschi come orari, cioè non sei più padrone del tuo tempo, che questa è stata una battaglia. La battaglia iniziale del movimento operaio, no? La giornata di 8 ore, proprio perché il tempo è vita. E quindi alla fine, per guadagnare qualche lira di più e consentire alla tua famiglia di vivere meglio, si rischia di sfasciare le famiglie, come nel caso di quel film. Questa è una nuova condizione proletaria, veramente, proletaria nel senso letterale del termine, che ha a che fare con la prole. Con la prole, certo. Ed è un grandissimo tema della nostra epoca, perché i lavori non normati, come secondo un sistema appunto salariale, orario e così via, sono sempre più diffusi, sempre più ampi. Rischiamo di avere generazioni di genitori che smarriscono la loro funzione di genitori non per colpa loro, ma perché devono lavorare. È un tema così bello, Antonio Polito, che ti chiameremo a parlarne ancora qui a Nessuna è Perfetta. Intanto grazie per aver fatto grazie una riflessione su figli e famiglia, e vi ricordo il libro, l'ultimo libro di Antonio Polito, Riprendiamoci i nostri figli, la solitudine dei padri e la generazione senza eredità. Buona domenica. Grazie a te Maria, ciao. Un abbraccio. Ciao. Marquez lo porta verso l'interno, non molla Andrea Dovizioso, bella, la infila con una bella derapata, con il cuore, è dentro, con il dentro, cuore, oddio, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, con il cuore, con la mente, con l'orgoglio, con la volontà, perché a vincere alla fine è uno soltanto. Sono Dario Ricci e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia vi racconterò i grandi duelli della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci di nuovo a Nessuna è Perfetta. Vi ricordo che potete chiamarci, lasciarci messaggi all'828 12 12 e questo, lo sapete, è il nostro momento Sunday Girl. E la Sunday Girl di questa domenica è protagonista di un film che si chiama proprio Figli, protagonista insieme a Valerio Mastandrea di un film tratto dal monologo che era stato recitato proprio da Valerio Mastandrea e scritto dal suo grande amico, l'autore purtroppo precocemente mancato, Mattia Torre. È un film che parla di genitori, di una coppia di genitori, ma non vi dico di più perché dovete andarlo a vedere al cinema e in sala appunto dal 23 gennaio. E chi è la Sunday Girl che recita insieme a Valerio Mastandrea? Ma è lei, è Paola Cortellesi. Bentornata a Nessuna Perfetta, Paola Cortellesi, amica di questa trasmissione dalla sua prima puntata, da 5 anni è sempre stata con noi. Ciao Maria, come stai? Va bene Paola, che piacere sentirti e non vedo l'ora di vedere Figli, così twitterò selvaggiamente in diretta. Tu esatto, tu proprio, cioè, l'altra volta ci hai fatto, sei stata proprio un pilastro del film, hai fatto un endorsement meraviglioso. Sono sì, contenta che ti sia piaciuto. Sì, e io adesso non so se ti piaccia questo, secondo me ti piacerà. Secondo me anche. Secondo me anche. E poi sai che c'è questo paese, questa parte di paese di quarantenni, cinquantenni, insomma trentenni, quello che è, ha bisogno di rispecchiarsi un po' in queste storie, di sentire qualcuno vicino. Devo dire che questa è la storia che ti porta, cioè una storia in cui c'è, cioè una storia di che parla di persone che si sentono sole, perché ad essere genitori si è, a certe volte ci si sente lasciati soli, no? Dai servizi che mancano, dalla famiglia che magari non ti supporta, eccetera. E quindi sentendoti un po' solo ti senti anche unico. In realtà vedendo questo film ti rendi conto che sei proprio parte di un assoluto, cioè sei parte di una cosa che succede a tutti, è una sensazione comune. Quindi forse questo è il sentimento che, capito, che unisce un po' le persone che finora hanno visto, parlo di chi ha potuto vederlo appunto in anteprima per motivi chiaramente di lavoro, invece delle persone che lo vedranno, cioè poi alla fine siamo tutti sulla stessa barca. Ecco, ho come l'impressione, e perdonami se parlo per impressioni, che i genitori della tua generazione, della generazione di Valerio Mastandrea, che tra l'altro l'ha anche confessato in una intervista, abbiate, come si dire, un senso di iperprotezione nei confronti dei figli. Come se appunto fosse davvero un'impresa titanica. I nostri nonni ne facevano 5, 6 e li lasciavano lì a gestirsi un po' anche da soli. E invece non è solo per voi, anch'io ho fatto solo una figlia e probabilmente c'era anche questo senso di non poter gestire tutto, lavoro, famiglia, eccetera. Avverti anche tu questo senso di talvolta di essere iperprotettiva come mamma? Assolutamente sì, guarda, è una di quelle cose che ho notato subito appena già conoscevo l'articolo da cui è partita questa storia di Mattia, ma quando ho letto la sceneggiatura all'inizio del racconto, quindi all'inizio del film, ci sono annoverate una serie di tipologie di genitori, quelli naturisti, quelli iperprotettivi, quelli, e io mi riconoscevo in tutte queste categorie, cioè avevo le ossessioni di tutti. Quindi ne ridevo, però ti rendi anche conto quando lo vedi che, o quando lo leggi come nel mio caso per la prima volta, che ne hai tutte quante, nemmeno un'ossessione, cioè sono io e tanti come me, come ben dici, sicuramente non i nostri nonni, ma aggiungo nemmeno i nostri genitori, si sono fatti tutti questi problemi. Questo non significa che loro siano stati irresponsabili o superficiali, ma hanno vissuto con una leggerezza sana, probabilmente qualcosa di molto naturale che poi richiede grandissimi sforzi, come sappiamo, ma è la mettere al mondo e crescere dei figli. Invece sapere molto, sapere tantissimo, è chiaramente una buona cosa, un fatto, come dire, di progresso scientifico, ma forse insomma a questo si aggiungono un sacco di altre ansie di cui potremmo serenamente, secondo me, fare a meno. Qual è la massima ansia per Paola Cortellesi madre rispetto al futuro, rispetto all'ambiente, rispetto al fatto che i ragazzini cominciano a farsi le canne a 11 anni perché c'è qualcuno che gliele dà? Qual è l'ansia maggiore? Guarda, devo dire che è difficile sceglierne una per quante ne ho, capito? C'è l'imbarazzo della scelta, questo non depone a mio favore, però ne ho tante. Personalmente quella di sbagliare qualcosa nell'educazione, nella formazione, perché in questo chiaramente c'è poi quello che sarà, quello che diventerà. Nell'esempio che io le do, cioè, no? C'è quello che lei può sviluppare ed essere, ma sì, le ansie sono tante, sono quelle dei, sostanzialmente dei pericoli. I pericoli penso si possano non evitare, ma in qualche modo affrontare o arginare con una bella consapevolezza. Quindi quello che almeno io, insomma, che cerco di fare, che spero di non fallire in questo, cercare di darle la libertà di scelta personale. Quando tu fai l'esempio dei ragazzini che fanno qualcosa per emulare gli altri, io ecco questa cosa spero di limitarla, non penso di evitarla, perché poi quando sei adolescente poi sentirti parte di un gruppo, no? E certo, fai quello che fa il gruppo, però ecco, se riuscire con un po' di libero arbitrio, cioè riuscire a farle capire che scegliere con la propria testa è una cosa che ti rende libera, che ti rende non ti rende diversa, argirabile, ecco, dagli altri, ma che può fare invece bene ed è proprio l'inizio della tua libertà. Ecco, questo mi piacerebbe riuscire a infonderlo. Non ho idea di come fare, insomma, ci provo, ma poi per me tanto di sbagliare, come vedo tutti i genitori. Sì, si procede per tentativi. Paola Cortellesi, nel film Figli, l'equilibrio che il padre, cioè nel film Valerio Mastandrea, è convinto di aver creato anche nel rapporto con la figlia, è un equilibrio che va in crisi con la nascita del secondo genito. Questo succede tante volte in tante famiglie, al punto che, per esempio, citavo prima l'indagine che abbiamo spesso menzionato qui a Nessuno è Perfetta, l'indagine dell'Unione Europea delle Cooperative, quando nasce il secondo figlio, insomma la famiglia si amplia, spesso la mamma lascia il lavoro perché non riesce più a gestire. Ma possiamo allevare generazioni di figli unici? E lo dice una che appunto una sola figlia è riuscita ad avere. Anche io, guarda, siamo esattamente come si dice sulla stessa barca, anch'io ne ho una sola. No, chiaramente è al di là delle scelte personali, delle opportunità, delle occasioni e di ciò che è capitato naturalmente, però è chiaro che insomma in un paese a nascita zero ti auguri sempre che invece ci sia un'inversione di tendenza, quindi perché no, invece sarebbe bellissimo poter fare moltissimi figli. Quello che raccontiamo in questo film è una storia italiana e dunque ben inserita in un contesto italiano dove sicuramente se succede che la mamma lascia il lavoro è perché non ci sono grandi servizi, anzi sono pari a zero, a supportare una neomamma, no? O un neopapà, insomma dei genitori con un bebè da gestire e un lavoro da riprendere, cioè un'aspettativa di maternità, dopodiché bisogna riprendere il lavoro. In questa storia parliamo tra l'altro di una famiglia borghese, medio borghese, insomma che non ha altre urgenze drammatiche, però comunque sì, poi alla fine la donna sta per rinunciare al lavoro perché poi non trova altri appigli, no? Nella famiglia, soprattutto nei nonni che sono considerati le colonne portanti non solo della famiglia ma tu pensa che c'è una sentenza della Cassazione che è proprio recentissima di questi giorni che rispetto a un padre separato il quale lasciava i figli con la mamma, con i nonni insomma, perché probabilmente aveva anche degli impegni di lavoro, ebbene stabilisce che un padre separato il quale richieda l'affido dei bambini non può lasciarli per la maggior parte del tempo con i propri genitori. Ora, qual è il problema? È che dipende da quello che questo padre separato fa. Se passa il tempo in palestra ha ragione la Cassazione, ma se ha un lavoro come fa? Questo vale per un padre separato e vale anche in una coppia che serenamente continua a fare il proprio cammino insieme, ma se non ce la fa, se entrambi devono andare al lavoro, se un giorno un bambino che anche va dal nido, laddove ce ne sono di nidi, ha la febbre e non può andare, però tu invece devi andare al lavoro. Cioè, quindi ci sono i nonni. Poi nel nostro film raccontiamo dei nonni che proprio non ne vogliono sapere di questo, sono stufi, ma sono stufi per se stessi e per tutte le generazioni che lo hanno già fatto. Cioè, fanno proprio una questione di, capito, di classe. A questo punto insomma noi ci sentiamo persi. Poi chiaramente questo in questo film ci è raccontato la verità della vita, la verità della realtà del quotidiano, e però insomma con un tono tragicomico che soltanto Mattia Torre sapeva mettere. Il pensiero va a Mattia Torre, grandissimo autore, ma va anche a voi interpreti, perché sono temi che necessitano della giusta leggerezza nella loro talvolta drammatica, no? Quotidianità. Io ringrazio Paola Cortellesi che è tornata qui a Nessuna Perfetta, noi ci conosciamo da tanti anni ed è un piacere che si rinnova a ogni intervista e a ogni film, lo devo dire. No, grazie davvero, è il piacere veramente tutto mio, è sempre bello poter approfondire bene dei temi che mi stanno a cuore, quindi grazie. Grazie a te Paola, buona domenica. Un abbraccio, grazie a tutti. Ciao. Nessuna è perfetta. Eccoci, allora parliamo di figli, di famiglia, di donne che lasciano il lavoro quando arriva il secondo figlio perché non ce la fanno a tenere insieme tutto, lavoro e famiglia, in un paese che, lo ripetiamo da anni, ahimè senza inversioni di tendenza, ha uno dei tassi demografici più bassi del mondo insieme al Giappone. Nascono pochissimi bambini e questo per le ragioni che qui a Nessuna è Perfetta abbiamo mille volte citato. Ma questa domenica volevamo andare a capire da un punto di vista davvero molto poco indagato come vede questa bassa natalità, come è cambiato il mondo delle mamme in attesa, e a raccontarcelo questa angolazione totalmente diversa è una donna che da decenni con la sua azienda ha proprio il polso diretto della situazione. L'azienda è Nicole Caramel, che è stata fondata quando, buongiorno, buona domenica, Livia Danielli, che è l'amministratore delegato dell'azienda che produce abbigliamento per le mamme in attesa. Abiti molto carini che non fanno sentire per niente goffe le mamme in attesa. Quando è stata fondata l'azienda? Buona domenica, Livia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, l'azienda è stata fondata circa metà degli anni 70 da mia madre, che ha avuto in quel momento un'idea, diciamo, molto innovativa, e cioè quella di fornire per la donna incinta un guardaroba di prêt-à-porter, perché all'epoca, adesso sembra un po', diciamo, una forzatura, ma non c'era nulla di tutto ciò, nel senso che c'era la larga distribuzione e poi c'erano le sartorie. Quindi la mission, diciamo, iniziale, che poi è rimasta costante per più di 40 anni, ormai direi più, siamo a 45 circa di attività, è stata quella di poter fornire di un guardaroba normale, tra virgolette, quindi adatto al lavoro, adatto al tempo libero, ma sicuramente pensato principalmente per il lavoro, la donna quando rimane in gravidanza. Ecco, quali sono stati i cambiamenti in questi 45 anni? Faccio un esempio. All'inizio degli anni 80 chi era, come età, come professione, la vostra cliente tipo? E allora, qual è la vostra cliente tipo oggi? Sì, allora, dunque, la nostra cliente tipo era, direi, fin da subito una mamma inserita in una vita attiva. Per attiva intendo sia professionalmente sia socialmente. Negli anni 80 la parte della collezione dedicata agli impegni sociali, diciamo, era sicuramente molto più ampia rispetto ad oggi, in quanto ci si vestiva di più e anche in ufficio c'erano esigenze, si andava a lavorare in tailleur. Io mi ricordo, ho iniziato a lavorare negli anni 80 e c'era quasi, diciamo, una divisa lavorativa anche per le donne. E quindi sicuramente un guardaroba molto più ricco e molto più formale rispetto ad oggi. Oggi le mamme ci chiedono, sono ancora le mamme lavoratrici, sono mamme molto più diciamo impegnate su tanti fronti, nel senso che la sì, a me interessa soprattutto la questione generazionale, l'età media, sì, di chi entrava in un negozio negli anni 80 e l'età media di chi entra nei vostri negozi oggi. Allora, uno slittamento come minimo di 10 anni. Diciamo che il target inizialmente era 30 anni, adesso è sicuramente intorno ai 40. Questo non esclude assolutamente la presenza di mamme di 25 anni. Però io oggi in negozio vedo mamme di 25 come di 45 con gravidanze portate assolutamente splendidamente, anche perché la mamma 45enne che viene da voi è spesso alla prima gravidanza. Sì, sì, sì, assolutamente. Mentre fino a qualche anno fa avevamo le mamme, diciamo, massimo di 42 anni, dove però il 42 poteva essere il terzo figlio, oggi molto molto facilmente è il primo, perché appunto per esigenze professionali. E poi, tra l'altro, molte mamme ci chiedono un abbigliamento che non evidenzi la pancia. Noi abbiamo avuto negli anni le pance portate con grande, diciamo, non voglio dire esibizione perché è un termine che può sembrare sbagliato, però con orgoglio, diciamo, però con orgoglio, bravissima, mentre ora in ufficio spesso e volentieri purtroppo la pancia va nascosta. Questo ve lo dicono proprio le clienti? Sì, anche perché soprattutto nella fascia giovane, ecco, la mamma, diciamo, di 45 anni non ha questo problema, però nella fascia giovane spesso sono mamme che hanno contratti non diciamo continuativi, e quindi hanno paura a mostrare la pancia. Capite, talvolta, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, dopo tutti i discorsi che abbiamo fatto sulla demografia, sul fatto che in Italia servirebbe avere come dire, un cambio, un'inversione di tendenza, e quindi la nascita di più bambini, la nostra Livia Danielli, l'ospite di questa domenica, titolare di un'azienda che produce abiti per le mamme in attesa, Nicole Caramel, ci sta dicendo che le giovani mamme che entrano nei loro negozi le chiedono abiti che nascondano la pancia. Perché? Perché sul posto di lavoro non è molto ben vista una giovane donna che aspetta un bambino. E siamo ancora lì. È drammatico, no, Nicole Caramel, o meglio Livia Danielli? Assolutamente, confermo e sottoscrivo. Io ho avuto i miei figli circa 25 anni fa questo problema non esisteva assolutamente né all'interno della nostra azienda, ci mancherebbe altro visto che facciamo questo, ma neppure da parte di nessuna cliente, non capitava mai questo tipo di richiesta. Oggi è una richiesta sentita. L'ultima domanda per Livia Danielli, ma appunto avendo questo cambio, questa inversione di tendenza per cui sono spesso mamme al primo bambino che entrano e sono ultra quarantenni, qual è l'atteggiamento? Cioè, sanno che comunque quello sarà il primo e l'ultimo bambino della loro vita o pensano a famiglie diciamo più numerose? Ma allora, nello spazio di una vendita non sempre capita l'opportunità di poter approfondire questi argomenti, però talvolta si crea un rapporto carino per cui c'è un po' di confidenza. Direi che tendenzialmente o c'è la corsa a farne subito due velocemente, ecco, tra l'altro spesso abbiamo gemelli, perché ovviamente essendo un'età un pochino più diciamo avanzata, spesso abbiamo gravidanze gemellari, se no sono destinati a essere figli unici. Grazie a Livia Danielle che ci ha fornito con il suo punto di vista proprio che tocca il mercato da vicino, perché appunto ha una catena di negozi e un'azienda che produce abiti per mamme in attesa, ci ha fornito proprio un'angolazione del tutto speciale per capire com'è il mondo della maternità oggi in Italia. Buona domenica Livia Danielli, titolare di Nicole Caramel. Vi ricordate, vi avevo chiesto la settimana scorsa chi è per voi la donna che ha avuto un ruolo importante nella storia o anche nell'attualità, la donna chiave, e all'828 1212 ci sono arrivati molti messaggi, ve ne facciamo ascoltare un paio. Ciao Maria e buona domenica a tutti. Non so se la domanda della scorsa settimana fosse rivolta anche agli uomini, perché mi faceva piacere ricordare Margherita Hack, grandissima donna, un grande esempio di come il binomio donne-scienza sia vincente. Allora, la mia donna di riferimento preferita è Peggy Guggenheim, donna straordinaria per il mondo dell'arte, ma anche un grande esempio di donna che vive con passione la sua vita privata. Nessuna è perfetta, questa domenica chiude qui una puntata dedicata al tema della famiglia, dei figli, della maternità, che in Italia è una bella battaglia, ma anche la paternità è una bella battaglia, tanto che la mattina di Radio 24 prosegue appunto con Padri Eterni, ai quali vi lascio. Io vi spero di ritrovarvi domani mattina, 24 mattina dalle 8:20 con Simone Spezia. Buona domenica a tutti. Ciao.